Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Ferdinando Bruni, co-regista dello spettacolo Afghanistan, a Roma al Teatro Argentina dal 17 al 21 ottobre. Ferdinando, ben trovato. Buongiorno a voi. Ci descrivi lo spettacolo? Lo spettacolo è la versione italiana di un progetto che è stato fatto a Londra una decina d'anni fa da un teatro che si chiama Tricycle Theatre, che è il principale teatro inglese che si occupa di politica e contemporaneità, che ha chiesto a 10 autori della scena anglosassone contemporanea di scrivere altrettanti testi sulla storia dei rapporti fra l'Occidente e l'Afghanistan. Presi ad esempio, come dire, di tutti i rapporti che l'Occidente ha avuto con l'Oriente, di tutti i problemi. La vicenda dell'Afghanistan è una vicenda molto complessa, la sua posizione geografica e la sua storia lo rendono nodale proprio per questi rapporti. La cosa interessante, secondo me, del progetto è proprio questa cavalcata in una storia che è piuttosto sconosciuta ai più, anche se appunto l'Afghanistan gioca un ruolo centrale anche nelle nostre vite, se pensiamo che c'è ancora un contingente italiano lì e che vengono spesi parecchi soldi per l'attività di questo contingente in Afghanistan. Ci sono parecchi profughi afghani in Italia, ma noi di questa nazione sappiamo veramente poco, se non quello che ci arriva dai giornali o dai telegiornali. È una cavalcata di quasi 200 anni di storia, parte dal 1838 per arrivare ai giorni nostri, ed è anche una cavalcata nella drammaturgia contemporanea anglosassone, una drammaturgia che è attenta all'oggi e ai problemi del mondo contemporaneo, quindi alla capacità del teatro di parlarci ancora di quello che ci sta intorno. A prima vista, scorgendo l'elenco degli autori, sembrano tutti anglosassoni. Non parte già con uno sbilanciamento rispetto al punto di vista? Beh, sono tutti autori, come dire, che hanno una posizione piuttosto critica nei confronti Ok. della posizione inglese in questa vicenda. Devo dire che sono pochi, poco generosi nei confronti della loro patria. Alcuni ne abbiamo conosciuti di persona, altri come Simon Stevens, li stiamo anche rappresentando. Stiamo per debuttare poi a dicembre con Nello strano caso del cane ucciso a mezzanotte, che Stevens ha trattato da Roma di Marcato. Le Capitani ha messo in scena Harper Reagan, che è la vicenda di una donna nella società inglese contemporanea. In Afghanistan c'è un brano fra i più toccanti, un pezzo fra i più toccanti proprio di Simon Stevens, che parla dei problemi dei prof, dei, non dei profughi, ma di quelli che tornano, dei soldati che tornano e che hanno enormi difficoltà a inserirsi nella vita normale, nella vita di tutti i giorni di un paese occidentale. Quindi, come dire, sono sguardi molto critici nei confronti, anche perché i rapporti tra Occidente e Afghanistan sono sempre stati disastrosi e lo sono stati soprattutto per un problema di ignoranza, ignoranza della storia di quel paese, ignoranza del luogo, ignoranza delle enormi contraddizioni e complicazioni che trattare con l'Afghanistan comporta. Che impressioni hai ricavato da questo mosaico, di più autori? Prima di tutto è un materiale ricchissimo. Noi ovviamente ogni autore ha parlato di un frammento di storia e ne ha parlato secondo il suo stile, il suo modo di scrivere teatro. E io e Egio ci siamo anche divertiti a seguire questi stili, per cui ogni pezzo percorre un linguaggio teatrale diverso, che va dal melodramma alla serie televisiva, alla citazione dei grandi film alla Casablanca. Insomma, non è semplicemente teatro politico o teatro storico, ma è anche proprio un teatro-teatro, non so come dire. La prima parte che noi abbiamo messo in scena l'anno scorso a Milano ha avuto un enorme successo, un grande gioco che parte appunto dall'Ottocento e arriva fino alla fine degli anni 90. E altrettanto a Napoli ha avuto la revisione integrale di 7 ore di tutta la vicenda, no? Io credo che sia un esempio di come il teatro può ancora essere vivo e può ancora parlarci di cose che ci riguardano in prima persona. In questo senso, rispetto all'originale inglese, in che rapporto, avete messo il vostro spettacolo? Ma noi l'originale inglese non l'abbiamo visto, quindi Ok. abbiamo visto qualche frammento, sappiamo piuttosto poco. Quello che noi abbiamo fatto, per esempio, rispetto all'originale inglese, credo sia comunque morte è collegare le varie pièce con degli interventi video che hanno nella prima parte il ruolo di riempire i passaggi storici, no? Per dire, il primo episodio si svolge nel 1840, il secondo alla fine dell'Ottocento, quindi il video ci racconta cosa è successo nel frattempo, c'è stato un secolo molto tormentato per i rapporti anglo-afghani, l'Ottocento, e così fino alla fine degli anni 90. La prima parte finisce con il giorno in cui i talebani entrano a Kabul e massacrano l'ex presidente Najibullah, che era quello che aveva avuto i rapporti con i russi, li aveva fatti entrare in Afghanistan e tutto quanto, e segnano il passaggio appunto dall'Afghanistan come luogo remoto, lontano, o addirittura come meta di viaggi anche, no? Noi ci ricordiamo Alighiero Boetti, l'artista italiano che andava in Afghanistan a farsi tessere i grandi arazzi che poi portava nelle mostre in Occidente. Da allora in poi l'Afghanistan è diventato un luogo proibito per gli occidentali, un luogo molto, molto difficile, e nella seconda parte i video hanno il compito di raccontarci, invece di darci invece lo sguardo di chi vive in Afghanistan, di chi questa situazione di continua guerra, di continua violenza la subisce sballottato da un campo profughi all'altro. Ecco, sono due sguardi, no? Uno storico e uno invece più interno all'Afghanistan, e questi interventi video sono nostri, cioè non sono previsti dal progetto originale, diciamo, quello inglese. Rispetto alla scelta di attori e attrici nei vari quadri, sono in tutto 10 attori, fanno una quantità determinata di personaggi, devono diventare regine, spie, lavoratori delle organizzazioni non governative, profughi, vittime, carnefici, generali. Cioè, c'è un'enorme galleria di personaggi che questi 10 attori, che sono tutti attori che hanno spesso lavorato con noi, interpretano con grande, grande maestria. Sono 10, l'anno scorso erano 8, quest'anno abbiamo aggiunto due attori in più perché la galleria si è arricchita di personaggi e quindi avevamo bisogno di rinforzi. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Afghanistan. Io i nomi degli attori adesso non... No. Dico il nome di Francesco Frongia, che è l'autore dei video, perché l'intervento video è veramente imponente. Dello spettacolo, la ricerca di materiali e di voci, suddiviso in due parti e con una programmazione alterna: Il Grande Gioco 17-19 ottobre, Enduring Freedom 18 e 20 ottobre. Quindi nel complesso, l'ultimo giorno, domenica, abbiamo la maratona in cui si può vedere tutto il progetto intero. Esatto. Allora ricordiamo i giorni: dal 17 al 21 ottobre al Teatro Argentina. Un saluto e un ringraziamento al coregista Ferdinando Bruni. Ferdinando, un saluto, un ringraziamento e ci si vede a teatro. Grazie a voi, a presto. Ciao. Con Davide Enia, autore e attore dello spettacolo L'Abisso, al Teatro India a Roma dal 9 al 28 ottobre. Davide, ben trovato. Ciao a tutti, salve. Lo descrivi? L'Abisso è il secondo movimento dopo la scrittura del romanzo Appunti per un naufragio, che prova a riflettere sulle parole, per raccontare l'esperienza che ho vissuto andando sistematicamente per anni a Lampedusa. È un tentativo di provare a nominare il presente nel momento della crisi, prendendo atto del fallimento delle parole, prendendo atto dell'assoluta novità di quello che sta accadendo e della necessità di un cambio di paradigma, proprio perché è nuovo ciò che abbiamo davanti. Quante volte sei stato a Lampedusa e che esperienza è stata? Lampedusa la conosco da quando ho 3 anni, perché ci andava mia madre nel 44. Non so neanche dire quante volte, tantissime. Sistematicamente per la scrittura, diciamo che negli ultimi, dal 2014 al 2016, compreso, fino a metà del 17 ci andavo ogni 10-15 giorni, standoci 4-5 giorni, sì. E con conosco quindi molto bene l'isola, le sue dinamiche. L'esperienza è stata quanto di più simile alla parola traumatica possiamo assimilare. Non dico che sia traumatica per il profondo rispetto di chi ha vissuto il trauma di una persona. Io non ho visto i morti, a differenza di troppe persone, ma è evidente che chiunque risiede a Lampedusa o abbia lavorato in quel contesto di frontiera che è la Lampedusa, indicando anche ciò che è oltre l'orizzonte, sia in pieno burnout, cioè tecnicamente soffre di sindrome da stress post-traumatico, senza nominare ovviamente le persone che arrivano completamente traumatizzate e approdano nell'isola da noi dopo aver affrontato l'inferno nel deserto prima e in Libia dopo. È in qualche modo davvero spalancarsi su una voragine, su un abisso, che però è quanto mai urgente osservare, perché il mondo come ci sta presentando davanti ti fa scoprire che alla fine dell'abisso c'è uno specchio, in quello specchio c'è la risposta che noi stiamo dando a quanto sta accadendo. I greci si disse che ebbero la misura, la scoprirono, perché ebbero il coraggio di fronteggiare l'abisso. Davide, la messa in scena che lavoro ha comportato? Che scelte hai fatto? Siamo io e Giulio Barocchieri, il mio solito sodale compagno di scena, il chitarrista. Il lavoro attoriale è molto performativo. Io mi rimetto nello stato da prova a rimettermi nello stato d'animo di chi sta nominando per la prima volta i fatti. Quindi mi pongo in qualche modo in quella esposizione, in quella vulnerabilità che ho provato. Sono me stesso che racconta me stesso quando incontro queste cose per la prima volta. Le musiche che abbiamo in scena, fatte con la chitarra elettrica e le loop station, sono cariche di suoni molto disturbati, molto sporchi, come disturbata e sporca la realtà che ho avuto modo di incontrare. Non c'è esito, e il tutto tende a sottrarre ogni possibilità di retorica, a partire anche dalla scelta della locandina che abbiamo, che ha fatto un artista, Silvia Giambrone, e c'è una trappola per topi tirata fuori dalle acque e arrugginita col formaggio ancora sano. Levare ogni retorica, levare ogni consolazione, levare ogni orpello, per cercare semplicemente di mettere assieme dei frammenti che sono i più aderenti possibile a come io ho vissuto e incontrato i fatti. Ecco, a proposito del tuo vissuto, che pensiero hai elaborato, che idea ti sei fatto sul fenomeno migratorio? Ma l'idea che mi sono fatto io è che è inutile che io esponga la mia idea. I primi attori di questo fenomeno andrebbero ascoltati, e non vengono mai ascoltati, ci sono solitamente zittiti nelle ragioni e nel perché di questo spostamento. Quello che comprendo, avendo visitato, avendo frequentato, avendo studiato per anni quanto sta accadendo, è che tutto quanto è interconnesso. E se non si iniziano a comprendere a monte le radici di questo spostamento, è tutto quanto fallimentare. C'è una massa di persone che si muove perché al punto di origine succede sistematicamente qualche cosa. E quanto accade a delle interconnessioni con i governi occidentali. Qua siamo veramente alla base del tutto. La seconda cosa è che c'è una distorsione, una strumentalizzazione, una manipolazione vergognosa dei fatti. Soprattutto perché i primi attori, cioè le persone che lavorano nella frontiera e coloro che ci arrivano, sono sistematicamente zittiti. Che percorso farà il tuo lavoro, il tuo spettacolo, Davide? Partiamo da Roma, siamo 3 settimane all'India, poi siamo in tournée fino almeno ad aprile. Tocchiamo tranne Milano tutte le principali città d'Italia con insediamenti più o meno lunghi, stiamo anche là un paio di settimane, poi fine settimana lunghi a Bologna, Genova, poi, insomma siamo abbastanza in giro. A breve nel sito davidemia.org verrà pubblicato il calendario, che come sempre, insomma, è sempre in via di definizione, ci sono date che entrano dopo. Il teatro dà la possibilità. possibilità di rimettere in discussione ogni volta il materiale, perché la performance dal vivo a questo dimensione, cioè rischi sistematicamente di distruggere tutto il lavoro che fanno nelle prove altre. Al tempo stesso però riesci a vivere in sintonia quell'istante con le persone, facendo in qualche modo del teatro il luogo del dubbio, della discussione, della riflessione sul presente, che è un po' il motivo per il quale il teatro stesso era nato, cioè porsi dubbi, domande, riflessioni su quanto sta accadendo ora. Ricordiamo allora lo spettacolo L'Abisso di e con Davide Enia dal 9 al 28 ottobre a Roma al Teatro India. Davide, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Grazie a voi tutti, un caro saluto agli ascoltatori. Ciao Micari. Ciao. Con Cinzia Storari, ideatrice e organizzatrice del progetto Shakespeare 2018 a Roma, Teatro Cometa Off dal 17 al 21 ottobre. Cinzia, ben trovata. Buongiorno, piacere. Presentaci quest'idea. Io sono specializzata con la Sega Morti Company in riscritture shakespeariane da più di 10 anni. Ci piace prendere dei personaggi e utilizzarli per fare altri spettacoli. Però quest'anno era un anno particolare perché era il cinquantenario di Romeo e Giulietta e Zeffirelli, che poi è quello che ha fatto nascere la mia passione per Shakespeare personalmente. E quindi con Solimano Pontarolo di Casa Shakespeare di Verona e con gli amici di Argo, gli amici di Cometa Off e tantissimi altri attori miei amici abbiamo deciso di fare questa cosa. Cioè di mettere su una manifestazione che comprendesse spettacoli teatrali di riscritture shakespeariane, dei corti cinematografici che abbiamo fatto proprio per l'occasione, una mostra fotografica, anche di memorabilia proprio di Romeo e Giulietta di Zeffirelli. Io sono una collezionista e quindi abbiamo accorpato tutto per un 5 giorni appunto completamente dedicati a questa cosa. Come sarà strutturata? Dalle 18 il teatro Cometa Off è aperto. Si può vedere la mostra appunto delle foto di Manuela Giusto che aveva fatto per Shakespeare 2016, che avevamo fatto ad Argo, quindi tutti spettacoli internazionali. Alle 19 abbiamo la parte video, quindi vengono messi in onda i short Shakespeare, questi che abbiamo fatto appunto, questi 4 inserti shakespeariani brevissimi, monologhi shakespeariani che sono stati girati da Alberto Basaluzzo con Alessandro Averone, Michele Cesari, e Giovanna Mangiù e Caterina Gramaglia, sono proprio degli sprazzi. Poi avremo altri inserti video che ci sono stati gentilmente donati da altri amici, tra cui Giulio Forges d'Avanzati e Maria Stella Taccone. E poi alle 21 avremo ogni sera uno spettacolo. E iniziamo il 17 con Lettere d'amore scritte a mano, che è un testo che ho fatto io sul fenomeno delle lettere a Giulietta a Verona, e saranno Tamara Bartolini e Michele Baronio, che sono dei carissimi amici, a fare uno dei loro reading con questo testo. Poi a seguire avremo Lady Macbeth Show, fatto da Sara Biacchi con Roberto Ciufoli, che è una specie di un talk show praticamente sulla figura di Lady Macbeth, con inserti anche di musica lirica, perché Sara è anche una soprano. Poi avremo Romeo e Giulietta Circus, perché da Romeo e Giulietta non si esce fuori, il 19, con Gabriele Granito e Beatrice Messa, che faranno questa specie di riscrittura di Romeo e Giulietta come questo carrozzone di attori che gira appunto per le campagne d'Italia, cerca di raccontare in italiano questa storia. Poi ci sarà l'ultimo spettacolo, che è l'ultima produzione che ha fatto la Sycamore, cioè la mia struttura, che è Rosalina, come la porre nel fuoco, che è praticamente la scrittura di un personaggio molto secondario di Romeo e Giulietta, che è Rosalina, la prima donna di Romeo, ed è molto, molto particolare, una riscrittura molto particolare, molto bella da vedere, e che sarà il sabato e la domenica. La scelta di questi lavori compone un quadro per rendere onore, insomma, alla figura di Shakespeare? Sì, assolutamente sì. Io penso che Shakespeare sia veramente universale e che si possa portare veramente anche alle generazioni giovani. Io mi sono ricordata come ero arrivata io a Shakespeare a suo tempo. Da piccola, piccolissima, avevo 5 anni, ho visto un film che mi è piaciuto, che è appunto Romeo e Giulietta di Zeffirelli. E sarebbe bello poterlo riportare di nuovo nello stesso modo. Attualmente il teatro non si fa più in televisione o al cinema come si faceva prima, e secondo me si perde tanto. Sarebbe bello, per esempio, fare una webserie, sarebbe bellissimo, perché i giovani di adesso, secondo me, quello vedono le cose su YouTube o su Instagram. Però abbiamo cercato appunto di rendere omaggio anche all'eterna gioventù di Shakespeare, facendo una piccola cosa che potesse in qualche maniera anche dare un po' di curiosità, più che altro questo. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Shakespeare 2018 a Roma, al Teatro Cometa Off, dal 17 al 21 ottobre. E Cinzia, in chiusura ci lasci anche i riferimenti web per le informazioni? Certo, su Facebook potete trovare proprio Shakespeare 2018, c'è cioè la nostra pagina con tutti quanti gli eventi per gli spettacoli e tutte quante le hint che riguardano appunto. E poi sul Cometa Off, sul sito, trovate appunto per poter prendere i biglietti e tutto Bene. quanto. Allora, un ringraziamento, un saluto e un in bocca al lupo. Grazie, grazie tantissime, vi aspettiamo. Arrivederci. Con Massimo Venturiello, regista e attore dello spettacolo Antigone a Roma, Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, 15 e 16 ottobre. Massimo, ben trovato. Bentrovati anche voi, grazie. Raccontaci di questa versione. Ma questa è un'ennesima Antigone, evidentemente l'attualità è sempre più forte. È tutto sommato una versione che vuole conservare abbastanza il testo di Sofocle, infatti l'adattamento che ha fatto Nicola Fano è fedelissimo, tranne che, come dire, l'uso di un linguaggio molto fruibile, molto chiaro. Noi abbiamo debuttato quest'estate in vari teatri romani, non solo, voglio dire, italiani, Taormina, Tindari, siamo stati, insomma, in varie piazze e quindi anche in vari teatri greci. Importante, cioè, la cosa che più è venuta fuori è proprio questa comunicazione immediata, anche grazie a un linguaggio molto chiaro. Ecco, la difficoltà di questi testi spesso è proprio l'ermetismo, insomma, invece in questo caso è un'Antigone che arriva innanzitutto per il linguaggio che usa. Poi, dicevamo, il tema attuale, è evidente che, insomma, questo contrasto che rende appunto ancora oggi importante una riproposta del genere, il contrasto tra la legge, così nella sua inflessibilità, e invece le ragioni del cuore, le ragioni della propria etica. Voglio dire, Dell'umanità. proprio in questi giorni abbiamo un esempio clamoroso di un'altra Antigone, il sindaco di Riace, no? Sì. Cioè, si è, in qualche modo ha voluto reagire e quindi cercare una strada che seguisse un'umanità e che tutto sommato purtroppo non teneva conto fino in fondo della legge. Ora, cosa è giusto? È veramente giusto punire severamente? Basta, oppure chissà? Ecco, il tema Creonte da una parte, Antigone dall'altra, rimane un tema aperto. Una risposta definitiva ancora non c'è. Poi i propri punti di vista personali, cioè, altra cosa, ma la riflessione è forte e ancora molto importante. Oltre al lavoro di chiarificazione e semplificazione del testo, su quali aspetti dell'Antigone avete dato risalto? Soprattutto questo contrasto, ti dicevo, tra Antigone e Creonte. Poi ho cercato in qualche modo, perché io, che interpreto anche Creonte, sento, pur avendo ovviamente tutta una mia matrice totalmente contro Creonte dalla parte di Antigone, però ora forse con gli anni sento anche la solitudine di questo tiranno, la sua responsabilità, il suo, come dire, non è facile. Ecco, ho lasciato aperto una porta anche alla possibilità che tutto sommato Creonte possa anche avere le sue ragioni per mandare a morte Antigone, cosa che in altre epoche mi avrebbe, come dire, disgustato solo a sentire. Ma è così, cioè non è facile, ecco, diciamo che poi l'anarchia e il caos è la cosa più pericolosa, e quindi questo aspetto è stato quello che abbiamo voluto curare di più. Come regia mi è piaciuto dare al coro, nella scrittura di Sofocle è composto dai vecchi tebani, e qui sì, sono vecchi, ma sono, per modo di dire, vecchi, insomma, poi tutto sommato ho cercato di snellire quell'aspetto, diciamo, che rende un po' datato il testo, cioè tutti quei continui riferimenti a una mitologia che oggi è incomprensibile, no? E quindi il coro è stato asciugato e soprattutto è stato riproposto quasi in una versione musicale. Germano Mazzocchetti, che ha fatto le musiche originali di questo lavoro, di questo testo, di questo spettacolo, gli ha dato proprio un recitar cantando, un'impostazione di questo tipo, e questo coro, che è composto da questi personaggi sempre in movimento, insomma, mi fanno pensare quasi a dei personaggi senza tempo che passano attraverso i secoli e che si in qualche modo assistono ponendosi e riflettendo su certe domande, e quindi sono quasi una sorta di via di mezzo tra lo spettacolo e lo spettatore. Ecco. Sulla messa in scena come hai lavorato? Sì, appunto, ti dicevo, la musica è molto importante, okay, in questo testo. Io qui, peraltro, prima di debuttare, insomma, quest'estate, come ti dicevo, a Taormina e anche a Sarsi, nel festival estivo, insomma, mi era stato chiesto con chi l'avrei fatto, e inizialmente io ho detto, ma l'Antigone sarà sicuramente un'attrice che con un nome di mercato, visto come sono oggi le leggi del mercato. A un certo punto me ne sono un po' fregato, ti dico la verità, perché poi prendere un'attrice solo perché magari ha una risposta di matrice televisiva o altro, insomma, nella speranza di ottenere più piazze, è un'illusione, e comunque sia una cosa che io non amo. Quindi ho fatto dei provini, ho fatto tanti provini, e alla fine proprio alcuni ragazzi della scuola, a cominciare da Antigone, Giulia Sanna è una ragazza della scuola che io dirigo, questa officina Pasolini, no? Io dirigo la sezione teatro. Ci sono sei attori che frequentano o che hanno frequentato la Pasolini, che io ho scelto esclusivamente perché hanno fatto dei provini meravigliosi, è tutto qui. E la risposta c'è stata, nessuno si è accorto della giovinezza, nel senso, tra virgolette, della possibilità di un'immaturità recitativa, assolutamente no, è venuto fuori uno spettacolo di grande comunicazione. E quindi, poi sai, adesso senza falsa retorica, però quando agli applausi i bravi superano il bravo o brava, secondo me il teatro è andato nella direzione giusta, ed è sempre un lavoro di squadra. Sì. Massimo, proseguirà il suo percorso dopo queste date romane? Sarebbe un peccato che non proseguisse, però è ovvio che noi non abbiamo una tournée invernale, sia perché io sono impegnato con altre cose, sia perché difficilmente d'inverno, diciamo, nei teatri si gira con delle tragedie, sono episodi sporadici, spesso scambi tra un teatro stabile, un nazionale che sia, ed altro, quindi mi auguro che possa essere riproposto magari di nuovo in estate, nell'estate prossima. In qualche modo io cercherò di lavorare in questa direzione perché venga ripreso, proprio perché è stata un'esperienza assolutamente riuscita. Antigone a Roma, all'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Venturiello, che ne è regista e attore. Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie e un saluto a tutti voi. Ciao, ciao. Con Marco Usai, regista dello spettacolo Il figlio di Bakunin, a Roma, al Teatro Studio 1, dal 18 al 21 ottobre. Marco, ben trovato. Grazie a voi, grazie a voi. Buongiorno, ciao. Descrivici questo lavoro. Questo lavoro è tratto dal romanzo omonimo di Sergio Azzeni, uno scrittore sardo scomparso nel 1991. È appunto il figlio di Bakunin, che utilizza il riferimento alla figura del famoso anarchico russo, localizzandola però in un paesino della Sardegna che si chiama Cuspini. Per parlare della storia di questo figlio di Bakunin, Sergio Azzeni, l'autore del romanzo, fa parlare una miriade veramente di personaggi che saranno loro a descrivere la vita di questo Tullio Sabba, del figlio di questo calzolaio di Cuspini. E ovviamente quando tutti parlano della vita di qualcuno le prospettive sono molto diverse e anche le opinioni che si hanno a riguardo di questa persona, quindi il giornalista che va a cercare in giro delle informazioni, a conoscere questa figura che diventa quasi mitologica di Tullio Sabba, si troverà di fronte a conoscenti di Tullio Sabba, ma anche di persone che ne hanno solo sentito parlare, e quindi molto spesso ci saranno delle informazioni contraddittorie che verranno regalate allo spettatore e creeranno appunto una figura veramente molto particolare che sfugge alla verità e alla conoscenza quindi della verità. Cosa ti aveva colpito del libro? Beh, sicuramente la coralità con la quale Sergio Azzeni ha portato a compimento l'opera. È un romanzo breve, ma all'interno del quale si aprono 30 piccoli mondi. E sono veramente dei mondi, perché ognuno ha un proprio modo di pensare, ogni personaggio è figlio dell'epoca di cui fa parte, essendo poi un libro che utilizza 30 anni di storia della storia d'Italia, dalla seconda metà degli anni 20 fino alla seconda metà degli anni 50, insomma è un'epoca in cui sono cambiate tante cose in Italia, in Sardegna, ma in tutto il mondo. Oltre alla coralità, poi mi ha colpito moltissimo anche la forza non solo sarda dell'opera di Azzeni, che è una caratteristica tipica di tutti gli scrittori isolani, ma una forza sicuramente italiana, che si definirebbe un po' continentale, ma anche europea, proprio perché Azzeni, pur essendo uno scrittore di radici sarde, si considerava sardo, italiano ed europeo, e questo lo fa essere molto vicino ai nostri giorni, e soprattutto in questo momento in cui questa situazione un po' internazionale tende a traballare, ricordarsi invece che già negli anni 90 e negli anni 80 c'erano persone e intellettuali che con forza si definivano sardi, italiani, ma anche europei, è sia di buon auspicio che anche ci dà una sicurezza su qual è la strada da percorrere. Che scelte hai fatto per la messa in scena? La scelta è stata quella di utilizzare il teatro di narrazione e lasciare quindi che i monologhi venissero interpretati interamente dai ragazzi. I miei colleghi attori stanno facendo un lavoro grandissimo e ci tengo veramente a ringraziarli perché questo spettacolo è stato creato interamente con loro. Sono Tiziano Caputo, Marco Ceccotti, Piero Grant e Valeria Romanelli. Sono loro che interpretano più di 30 personaggi, quindi ognuno farà 6-7 personaggi con tutti i cambi di sorta, ma oltre a utilizzare sempre il tono grottesco e ironico che c'è in Azzeni, si caleranno interamente nelle storie ironiche, ma anche in alcuni casi drammatiche. C'è una storia, per esempio, che noi chiamiamo la moglie di Ottavio, che è il racconto di una donna che subisce delle vessazioni durante il periodo fascista, e in questo caso la penna di Azzeni si dimostra grandissima, perché descrive con una sensibilità tale l'animo di questa donna che ce lo fa proprio rendere pratico, ma anche Valeria Romanelli, l'attrice che lo interpreta, sta facendo un grandissimo lavoro, come i tre ragazzi nel lavoro di coralità, il lavoro corale che stanno portando avanti su una scena dei minatori, si stanno calando veramente nelle viscere delle miniere di carbonia del Sulcis Cresiente della Sardegna, e stanno tirando fuori veramente uno spaccato molto interessante, secondo me, di quel periodo storico. Un debutto dopo questa 4 giorni romana, che succederà? Intanto facciamo vedere questo spettacolo a Roma. L'obiettivo è quello poi di partecipare ai festival, di riuscire a far vedere il nostro lavoro non solo appunto a Roma ma anche in altre città d'Italia, questo lo stiamo costruendo veramente passo dopo passo, quindi in questo momento, in questi mesi di lavoro, ci stiamo concentrando per questo debutto e per rendere degnamente omaggio alla figura di Sergio Azzeni e soprattutto a questo bellissimo romanzo. Anche perché lavorare al Teatro Studio 1, diretto da Alessandro Di Somma e Eleonora Turco, vuol dire sempre fare dei lavori in un contesto specifico che ti danno la possibilità di veramente concentrarti in maniera molto proficua e molto profonda sul lavoro che stai facendo. E a questo proposito li vorrei proprio ringraziare, perché è una realtà molto bella del teatro romano e credo italiano, che c'è oggigiorno e che dà fiducia a queste operazioni, che ovviamente sono delle operazioni più complesse poi da poter poi far girare e portare in giro. Quindi il loro lavoro e la loro dedizione veramente al teatro offre alle giovani compagnie come la nostra è veramente encomiabile. Bene. Io ti aggiungo così una nota simpatica, una parentesi relativa a questa accentazione del Bakunin. Mi ha fatto venire subito in mente il film La Grande Guerra di Mario Monicelli, in cui Gassman dice a Sordi: tu l'hai mai letto il Bakunin? Ah, no, ecco, non me lo ricordavo. Bellissimo. Lui interpreta, fa un personaggio del nord, giusto? Sì, sì, esatto. Sì, è vero, è il Bakunin. È effettivamente Bakunin è entrato nell'immaginario collettivo dell'epoca in maniera molto forte, veramente tutte le latitudini. Poi è stato in Italia per tanto tempo, sì. Bakunin, quindi ha lasciato un'orma veramente importante. Molto bello questo ricordo, grazie. Ricordiamo il debutto dello spettacolo Il figlio di Bakunin a Roma, Teatro Studio 1, dal 18 al 21 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Usai. Marco, grazie. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Crepi, ci vediamo a teatro. Ciao a tutti, grazie. L'autore e regista Lorenzo Collalti per lo spettacolo Reparto Amleto a Roma al Teatro India dal 9 al 21 ottobre. Reparto Amleto, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, che abbiamo in collegamento telefonico. Lorenzo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Cominciamo raccontando per sommi capi la storia, Lorenzo. Sì, allora la storia è una riscrittura dell'Amleto di Shakespeare, ambientato ai giorni nostri, giocando su un paradosso. Amleto, sfinito dalle tante interpretazioni di tutti i registi nella storia, dei critici, è sprofondato da una profonda depressione e non sa più, non riesce più a capire chi sia realmente, quali siano i suoi obiettivi, e si fa ricoverare al pronto soccorso in un ospedale moderno. E in questo ospedale due portantini e un medico cercano di capire e di esaminare un po' questo personaggio completamente folle, e durante tutto lo spettacolo non si sa mai se questo personaggio è un ragazzo impazzito, crede di essere Amleto o è Amleto vero e proprio. Quindi ne nascono una serie di circostanze molto bizzarre che vanno a ripercorrere e a viaggiare in parallelo con quella che è l'opera di Shakespeare vera e propria, attraverso una serie di rimandi e riscrivendo in un contesto moderno tutta la parabola shakespeariana. Ci parli anche un po' della genesi di questo lavoro? Questo lavoro nasce lo scorso anno ed è stato presentato al Festival di Dominio Pubblico Under 25, dove abbiamo vinto come miglior spettacolo e siamo stati prodotti dal Teatro di Roma, ed è uno spettacolo nato in seno alla compagnia L'Uomo di Fumo, che è la compagnia della quale faccio parte, una compagnia di giovani attori, tutti quanti diplomati all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che abbiamo frequentato, eravamo dei compagni di classe e abbiamo iniziato a fare dei lavori insieme, e dopo la fine dell'Accademia abbiamo deciso di fondare una nostra compagnia e costituirci e abbiamo iniziato a lavorare insieme, dove io sono regista e drammaturgo e ci sono diversi attori, e tutti gli attori che vedrete in scena al reparto Amleto sono tutti attori della compagnia. Diciamo che i nostri lavori sono principalmente drammaturgie inedite e io lavoro appunto sia come regista che come drammaturgo, e anche questo è un lavoro che un po' come tutti è caratterizzato da una costruzione drammaturgica sviluppata insieme agli attori prima delle prove ma anche durante le prove, e quindi è una drammaturgia veramente inedita e costruita ad hoc per lo spettacolo e anche ad hoc per gli attori e questo gruppo che si è formato. Visto che sei anche l'autore in quanto lo hai scritto, poi ci hai detto anche della costruzione con gli altri della compagnia, volevo chiederti qual è stato il tuo rapporto con la scrittura shakespeariana. Beh, allora, l'idea del testo nasce da al fatto che secondo me ogni regista, che sia giovane come me o maturo, è sempre ossessionato da Amleto. Amleto è praticamente il testo per eccellenza, e tutti quanti provano il desiderio di metterlo in scena e di dire la propria opinione sul testo. Ed è proprio da questo che è nata l'idea di voler riscrivere, o comunque di voler mettere mano a questa tragedia shakespeariana. E proprio dall'ossessione di cercare una strada originale e creativa per reinventarlo, per riproporlo, ho pensato a quanto il povero Amleto è stato più e più volte riscritto, rimanipolato, rimaneggiato da tutti i vari registi, e di qui nasce proprio l'idea del testo. E quindi il rapporto con la scrittura, oltre ad esserci dei rimandi continui al testo shakespeariano, Amleto spesso e volentieri fa delle citazioni dell'Amleto vero e proprio del testo di Shakespeare, ma oltre a questo c'è un gioco a voler ricercare delle dinamiche all'interno del testo vero e proprio di Shakespeare, che forse attraverso una chiave esterna, una rilettura come quella che vorremmo fare noi, che abbiamo fatto, si possono ritrovare per una via diversa, ribaltando la percezione. Prima invece che studiare Amleto, ora è Amleto che studia chi l'ha messo in scena in tutti questi anni. Bene. Non so se sono riuscito a rispondere più o sì, meno. Sì, sì, sì. Ci ho provato. Senti Lorenzo, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web della vostra compagnia e dello spettacolo? Per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook L'Uomo di Fumo. Perfetto. Compagnia teatrale, oppure visitare direttamente il sito del Teatro di Roma per questo spettacolo qui, oppure andare sul nostro sito www.luomodifumo.com e potete trovare tutte le informazioni, potete contattarci e qualsiasi cosa. Lorenzo, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Crepi, grazie mille, grazie. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. L'autore e regista Lorenzo Collalti per lo spettacolo Reparto Amleto a Roma al Teatro India dal 9 al 21 ottobre. Con Norma Martelli, regista dello spettacolo Un attimo prima, a Roma al Teatro Vascello dal 5 ottobre al 18 novembre. Norma, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato a questa trasmissione. Ti chiedo subito com'è andata la prima ieri. Molto bene, sono contenta, siamo stati tutti molto contenti, perché era la prima volta comunque che veniva fatto davanti a un pubblico, e allora tutto quello che uno le intenzioni finalmente si vedono tradotte in comprensione, ecco. Quindi è andata molto bene, siamo molto contenti, molto emozionante, il pubblico l'ha capito. Poi la sala dove noi lo facciamo, al Teatro Vascello, è una sala intima, quindi è una cosa per 40 posti, e quindi è come se, è proprio come se fosse un racconto, sai, un racconto, le persone si portano da casa la sedia, si mettono intorno e ascoltano questo racconto, perché saprete che un attimo prima è il racconto di, comunque, di un'avventura di una donna, di una giovane ragazza che va su in montagna durante la prima guerra mondiale, quindi è racconta quello che lei vede, quello che lei prova, quello che lei sente, le sue, insomma. E allora è come se lo, io mi ricordo quando ero piccolina c'era mio zio che aveva fatto tutte le guerre, dicevo sempre: zio, mi racconti com'era la guerra? Lui chiaramente mi raccontava quella della seconda guerra mondiale. Ecco, è un po', ho avuto quella sensazione ieri. Mm-hmm. Siamo contenti. Partiamo dall'origine dello spettacolo, ci racconti tutto? Allora, velocemente, che cosa vi racconto? Vabbè, insomma, a me mi è capitato questo testo, che me la Claudia Campagnola, che è l'attrice che lo interpreta, me l'ha fatto leggere, di Paolo Logli, e veramente mi sono subito, cioè dalla prima parola all'ultima non sono più riuscita a staccare l'attenzione. Allora, bisogna ricordare due cose storiche. Durante la prima guerra mondiale vennero arruolate per un periodo di tempo, circa un anno e mezzo, arruolate, erano dell'ausiliare, su nella Carnia, in Carnia, delle donne che dovevano portare da valle, dai paesi al valle fino alle trincee, tutto quello che serviva agli uomini per combattere, viveri, munizioni, e si chiamavano proprio le portatrici carniche. E anzi, è stato proprio un corpo ausiliare dell'esercito, perché non essendoci le strade rotabili, gli uomini non ce n'erano più, non potevano fare le mulattiere perché insomma erano tutti a combattere, quindi chiesero alle donne, e le donne accettarono. E quindi questo... tutto lo spettacolo si svolge proprio come un'ipotetica salita su una delle tante salite da valle di una giovane donna, e mentre sale comincia a pensare alla guerra, che cos'è la vita, insomma tutti i suoi, è un flusso poetico di pensieri, ecco, accanto all'amore per la montagna, per il cielo, per la vita, e nello stesso tempo più esalta la bellezza di quello che c'è intorno, della vita, diciamo, dell'amore, che lei chiaramente vede in un soldato un amore futuro, quando finirà la guerra finalmente con lui, chissà cosa andremo dietro casa, eccetera, forse ci sposeremo. Insomma, accanto a un desiderio di vita, ancor di più lo scenario della guerra diventa una cosa atroce e insensata. Ecco, questo è lo spettacolo. E da quando l'ho letto, proprio mi è venuto a galla proprio un ricordo di un film, infatti lo vorrei così ipoteticamente dedicato a lui, anche se insomma, che è Uomini Contro, è un film di quando uscì, di Francesco Rosi, mi sono rivista tante volte. Lì è chiaramente la guerra fatta e vista dagli uomini, perché sono tutti, non so se tu l'hai visto. Sì. Ecco, è un po' la stessa situazione vista da una giovane ragazza. È proprio l'insensatezza della guerra, specialmente queste guerre di trincee dove praticamente si conoscono, stanno a 20 metri, però certo improvvisamente c'è qualcuno che ti dice vai, non si sa perché, vai a morire. Ecco, è questo. E allora il film, secondo me, l'ho rivisto due o tre volte, perché proprio, anche se non c'entra niente, perché sono due storie completamente diverse, ma proprio per ricreare quell'atmosfera della trincea e insomma, mi è servito molto. E proprio a Francesco Rosi ho sempre pensato a lui, mentre anche spiegavo, cercavo di dire delle cose a Claudia come sentimenti, come sensazione. Ecco, questo. Ecco, proprio a questo proposito, sia rispetto al film che alla pagina scritta, come hai pensato la messa in scena? Guarda, la messa in scena, ecco, siccome lo spazio è particolare giù del Teatro Studio al Vascello, che però a me piace anche per questo, io già ho fatto altri due spettacoli in quello spazio, quindi lo spazio, intanto la salita è come se fosse una pedana, una trincea, ecco, ma è semplicemente una pedana con delle coperte per terra. L'unico elemento naturalistico, cioè reale, è la gerla, la famosa gerla, la specie di come si può dire, di zainone di paglia che si portavano sulle spalle, dove mettevano tutto, munizioni, cibo, eccetera. E certe volte anche uomini, quando ritornavano, scendevano, i feriti o i morti, molte volte se li caricavano, se li portavano così a valle. Ecco, quindi, e poi il pubblico che sta molto vicino, molto intorno, ecco, siamo molto raccolti e quindi abbiamo un rapporto diretto, è come se fosse un racconto, capito? Comincia con lei e pensa al rumore del tuono, perché lei è chiaro che essendo una ragazza semplice si rifà anche a cose semplici, quindi mentre cammina sente per esempio il tuono e comincia a dire questo è un rumore, ma è un rumore che fa paura, invece è un rumore buono, dice e racconta perché è buono, perché ti avverte di qualche cosa che verrà, quelli cattivi invece sono, anzi quello del mortaio c'è un fischio e puoi scappare, invece quello del cecchino appena lo senti non puoi fare più niente, devi soltanto morire, ecco, quindi è bello questo paragone. E poi la guerra raccontata da, che lei non sa, a un certo punto dice ma perché c'è la guerra non lo so, cioè io so perché c'è la guerra qui perché me l'hanno raccontata, ce l'hanno raccontata quelli che sono venuti qua del governo, che quando arrivano su in montagna vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché si dimenticano sempre di noi, e così racconta la guerra, dice io qui lo so al mio paese, al mio villaggio, però in paesi lontani come Verona o Padova non lo so perché c'è la guerra, quindi si ritrovano a fare delle cose senza, molto plausibili, no? Poi come insomma da quanti, specialmente nel 15-18 quanti ragazzi che andavano dal sud su in trincea, sapevano mica perché andavano, sapevano sì. Che andavano a combattere, perché ce l'avevano detto. E quindi la messa in scena è così, insomma, è molto semplice. C'è una specie di percorso che lei fa con la Gerla, mentre fa, si ferma e fa le sue considerazioni, parla col pubblico. È anche molto, sotto certi aspetti, è molto tenera questa ragazza, perché parla di cose atroci con la semplicità anche della giovinezza e anche della condizione, ecco, di una contadina, di una montanara, quindi è tenera, l'amore, dice ma questo mi guarda mentre mi lavo il collo, e poi alla fine dice ma la prima volta dice no, come ti permetti di lavarmi, lei ci racconta, e poi capisce, dice ma che cosa mi costa, per lui è una boccata di vita, perché questa qui, che questa condizione non è vivere, mi guarda e non mi importa, anche se il prevosto dice, dirà che non sono una buona cristiana, quindi c'è anche una insomma, bisognerebbe vederlo, dovete venire a vederlo. Norma, ecco, a questo proposito, quali giorni della settimana sarà in scena? Allora, i giorni della settimana sono il venerdì e il sabato alle 9:30 e la domenica alle 6:30, questo ogni venerdì, sabato e domenica da ieri fino al 18, ecco qua c'è scritto 18 novembre. Sì. Questo è. Poi chiaramente ci sono anche dei collaboratori molto prestigiosi, perché questa c'è l'attrice protagonista, poi c'è con lei, è accompagnata da un ritmo proprio di percussioni, perché sai tutte queste marce, tutte queste cose, insomma, quindi c'è anche una sonorità intorno che l'accompagna, e in più ogni tanto dei frammenti proprio melodici che sono di Nicola Piovani, che sono il suo desiderio di vita, che è raccontato con un violino, insomma, ecco, con oppure melodie di ballate di quando erano prima della guerra, quando si andava a ballare sull'Aia, ecco, ogni tanto ha dei frammenti di ricordi di com'era la vita prima della guerra. Che insomma danno un grande, portano molta, molta emozione, ecco, durante lo spettacolo, è un grandissimo aiuto. E questo. Ricordiamo allora lo spettacolo Un attimo prima a Roma al Teatro Vascello dal 5 ottobre al 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento alla regista Norma Martelli. Norma, grazie, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci grazie, presto. Grazie infinite, grazie. Con Fabrizio Grifasi, direttore del Roma Europa, dal 19 settembre al 25 novembre in vari luoghi della città. Fabrizio, ben trovato. Salve, ciao. Allora, presentaci questa edizione. Allora, dunque, come al solito due mesi, come al solito un festival che arrede all'interno della città, nei teatri pubblici, negli spazi privati, nei musei, nelle gallerie e anche nelle pubbliche piazze, quindi è un po' un'idea di festival che attraversa l'intera area metropolitana della città, un festival che ha un taglio profondamente rivolto al mondo, particolarmente in questa edizione. Presenta spettacoli di musica, di teatro, di danza, di arti digitali, le presenta con un cuore fortemente radicato in Europa e in Italia, ovviamente, ma che quest'anno particolarmente, a partire dall'Africa, in qualche modo guarda oltre i confini europei. E infatti l'inaugurazione è proprio dedicata all'Africa, tutta questa settimana è dedicata all'Africa, ma non solamente, perché cominciamo mercoledì 19 fino a sabato 22 al Teatro Argentina con un coreografo del Burkina Faso, si chiama Serge Mekoulibaly, mette in scena un'opera le cui musiche sono state scritte da Rokia Traoré e il libretto da Felwin Sarr. È una collaborazione di artisti che vengono tutti dall'Africa occidentale, Rokia Traoré è del Mali, Felwin Sarr è invece senegalese. Felwin Sarr è l'animatore degli incontri di Dakar, che sono in questo momento gli incontri che mettono assieme artisti, economisti, intellettuali africani che ragionano su un futuro per l'Africa che non sia quello, come dire, scritto e preorganizzato dall'Occidente. Quindi Felwin Sarr, tra l'altro, sarà con noi qui all'Opificio nella sede di Roma Europa domani alle 18:30 e discuterà con Aboubacar Soumakoro, l'attivista sindacale e sociale. Avranno appunto un dialogo esattamente su questo tema, cioè quello del futuro dell'Africa. Un'opera di danza, di musica e di parole. Sabato concerto di Moussa Ngaré, grande star della musica del Mali. Ritroveremo poi gli appuntamenti con gli artisti africani con Angélique Kidjo il 25 novembre, che rifarà The Many Light, l'album dei Talking Heads, e poi con un appuntamento dedicato al Congo con un grande regista della scena teatrale internazionale che è Nino Rau. Presentiamo il suo film che si chiama Il Tribunale del Congo, che è un film inchiesta esattamente sui genocidi che sono accaduti in Congo. Lo presentiamo a metà novembre in Opificio ed è sempre entrata gratuita, e lo presentiamo nella settimana in cui facciamo il film di Nino Rau. Dicevo l'Africa, poi ci spostiamo in Medio Oriente. Avremo all'Argentina alla fine della prossima settimana la creazione mondiale di Omar Azé, coreografo libanese che ospitiamo per la prima volta e che viene a Roma Europa con appunto una novità che si chiama Minareto, che è dedicato alla distruzione del minareto di Aleppo in Siria, città che è stata praticamente rasa al suolo durante la guerra. È uno spettacolo di danza con però tre musicisti tradizionali dal vivo, una sonorizzazione e una elettrificazione del loro suono e un drone, cosa un po' particolare. Uno spettacolo che ho visto in anteprima, molto toccante e molto struggente, che mantiene un approccio astratto, spettacolo di danza, e nel tempo stesso però ci porta profondamente dentro quello che è stato ed è ancora un momento drammatico del nostro presente. Poi ci spostiamo, passiamo in Iran, da dove arriva Ali Moini, che fa una performance nei saloni di Villa Medici a metà di ottobre. Poi faremo un salto lungo e andremo in Vietnam. Arriva Caroline Guéra con un cast di attori vietnamiti. Lo spettacolo si chiama Saigon. Lo facciamo il 28 e il 29 e il 30 di settembre all'Auditorium Parco della Musica. E parla di quando, dopo la sconfitta di Dien Bien Phu, i francesi sono andati via dal Vietnam. E molti vietnamiti li hanno seguiti, sperando e pensando di trovare in Francia una terra di Eldorado, e invece trovandosi a gestire i ristoranti. E parla di 20 anni di storia. È uno spettacolo molto bello, toccante, mi ha commosso molto, ci racconta in realtà quella che poi è una storia universale, e che conosciamo bene come italiani, quando ci è capitato a noi, e che in questo momento conoscono altri popoli. Poi facciamo un salto, passiamo per Pechino, perché da Pechino arriva la compagnia di danza contemporanea di Wen Hui, che fa un lavoro sulla rivoluzione culturale francese, le danze della rivoluzione culturale francese e sullo sguardo che ne ha. Poi ci spostiamo in Giappone, dal Giappone arriva Ryoji Keda, uno dei grandi della musica elettronica e delle arti visive elettroniche del nostro tempo. Il 25 novembre all'Auditorium Parco della Musica dal vivo con Datamatix e poi con un ensemble di percussioni con un suo pezzo appunto Music for Percussion. Poi arriviamo in America. America del Sud, per la prima volta a Roma arriva Lola Arias dall'Argentina con la sua compagnia. È uno spettacolo molto bello, si chiama Campo Minato, Minefield, ed è dedicato alla guerra delle Malvinas, Falkland. In scena ci sono quattro soldati reduci britannici che si sono combattuti nelle Falkland e che ricordano come nei rispettivi paesi l'ondata nazionalista montò in qualche modo questa assurda guerra per un pezzo di poche isole, e raccontano le loro storie personali di quando si sono combattuti, raccontano poi soprattutto il dopo, quando poi tutto si è sgonfiato, quando tutto ha perso di senso, e alla fine sono nei Beatles assieme. E anche questo è uno spettacolo molto forte, diretto, che ci parla in qualche modo di storie vissute. Poi ci abbiamo tanta musica, l'omaggio a Frank Zappa, che facciamo con l'esecuzione di Yellow Shark, l'omaggio a John Adams, uno dei grandi della musica del nostro tempo, con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le incursioni nell'elettronica che facciamo durante tutta la settimana di Digital Live e assieme a Spring Attitude alla Belanda, Matthew Herbert, che suona in chiusura di Roma Europa il 25 di novembre all'Auditorium, e assieme a Angel Kijot, che rifà Remain in Light, l'album dei Talking Heads. Tanta scena italiana con Yanagor, che all'Argentina portano la loro Restea, Mario Mattone, che rimonta il primo spettacolo di falso movimento del suo gruppo negli anni Ottanta, si chiamava Tango Glaciale, questa nuova versione si chiama Tango Glaciale Reloaded, ovviamente lo rimette in scena con tre attori giovanissimi, ma è un bellissimo, come dire, segno di quegli anni di grande effervescenza del teatro italiano e anche del percorso di un grande artista. Arrivano i Motus con un altro spettacolo molto toccante, molto forte, perché sono i ritratti degli attori multiraziali della compagnia La Mama di New York, che raccontano appunto le loro storie, le loro traiettorie di genere, insomma un pezzo della società americana fuori dalle righe. Tanti giovani compagnie durante la rassegna Anni Luce per il teatro e durante Dancing Days, e poi tutta la parte dedicata ai Kids. Dallo scorso anno Roma Europa a novembre, durante tre fine settimana, la Belanda a Mattatoio fa un programma dedicato ai Kids, ai bimbi e alle famiglie, quindi con musica, teatro, danza, il playground, facciamo una sfilata dentro il mercato di Testaccio, una partita di calcio nella piazza di Testaccio, insomma tutto quello che può rappresentare per l'universo dei bambini e dei loro genitori un incontro con la creazione del nostro tempo e nel tempo stesso ovviamente divertirsi, avere questi momenti di piacere e di stare assieme, che sono vitali. Questo è un po' un percorso, il percorso di Roma Europa. Cerchiamo sempre di raccontare il nostro tempo, e in questo raccontarci ovviamente ci interessa molto portare a Roma artisti che magari non sempre si vedono, però poi ci sono due nomi che assolutamente non dovete dimenticare, perché poi i grandi maestri sono sempre importanti: Peter Brook, che viene col suo nuovo spettacolo, si chiama The Prisoner, e anche questo è uno spettacolo molto particolare perché parla del tema della riconciliazione, una sua storia, racconta una storia che ha visto di persona in Afghanistan, e l'altro è un grande della danza contemporanea internazionale che si chiama Ofe Schetter, che viene con uno spettacolo iper rock molto molto potente al Teatro di... Ecco, questo è un po' un sunto dei due mesi di Roma Europa. Sì. Sono circa 70 progetti, l'intero programma lo potete trovare su romaeuropa.net. Ci sono tanti workshop gratuiti, tutto un programma che si chiama Community, che è appunto dedicato agli approfondimenti, gli incontri, i workshop, avete tutto quanto l'elenco. Non mancate all'incontro di Ferwinsar con Abubakar Somakoru a Via dei Magazzini Generali 20 all'Opificio Roma Europa, l'accesso è gratuito, è alle 18:30, e grazie a voi. Bene, i riferimenti ce li hai dati tutti. Ricordiamo la 33esima edizione di Roma Europa dal 19 settembre al 25 novembre. Un ringraziamento e un saluto al direttore Fabrizio Grifasi. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Patrizia Cavola, direttrice del TBM Danza, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, a Roma, al Teatro Tor Bella Monaca, dal 17 settembre al 16 dicembre. Patrizia, ben trovata. Buonasera. Ci presenti il festival? Certo, con piacere. Allora, questo festival appunto si parte con settimane di appuntamenti più concentrati a settembre, dal 17 al 30 di settembre, e poi, come hai anticipato, procede con un appuntamento a novembre e due a dicembre, fin per concludere appunto col debutto della compagnata Kama Tumia il 14-15-16 dicembre. E è un festival dedicato alla danza contemporanea, è un festival che ha una sua anzianità, nel senso che è dal 2013 che a Tor Bella Monaca esiste TBM Danza. Dallo scorso anno, dal 2017, il festival ha il contributo della Regione Lazio, assessorata alla cultura e politiche giovanili, e questo chiaramente ha permesso uno sviluppo del festival stesso, insomma, quindi ringraziamo la regione. Diciamo che negli ultimi due anni, per l'appunto, il festival era nato, il festival di danza nazionale, cioè era dedicato alla danza contemporanea e alle istituzioni italiane, e invece già dallo scorso anno si è aperto alle nazionalità. Quest'anno abbiamo compagnie dalla Spagna, dal Brasile, dalla Francia, dalla Russia, Enclave Danza, Le Grand Jeté, Artesos do Corpo e Tania Cabra. Poi abbiamo una serie di compagnie italiane, compagnie Artemis Danza, Francesca Vista, abbiamo Riella Vintage, Gruppo Emotion, insomma Motus Danza, spero di averli ricordati tutti, insomma un sacco di appuntamenti interessanti e diversi, perché uno degli intenti della direzione artistica è proprio quello di portare un panorama variegato di quello che è la creazione contemporanea di danza, quindi in qualche modo proposte differenti per stile, per poetica, per linguaggio, no? In maniera da abbracciare diverse tipologie. L'altra cosa importante di questo festival è che è animato da tutta una serie di altre attività collaterali, che sono laboratori, che sono masterclass, ci sono una serie di laboratori dove anche vengono montate delle azioni che vengono poi inserite in alcuni lavori. Questo accade con la compagnia Artemis Danza e con Francesca Vista. Laboratori che sono tenuti quindi da tutti i coreografi delle compagnie che sono ospitate nel festival, ma anche abbiamo creato un fantastico rapporto con tutte le scuole di danza del territorio, quindi ci saranno anche laboratori tenuti dai direttori, dagli insegnanti delle scuole del territorio, e anche in collaborazione col centro di formazione La Scatola dell'Arte, anche invece lezioni di danza indiana, di capoeira, di balance, che vengono proprio da insegnanti di Tai Chi, anche qui spero di ricordarmi tutti, che vengono proprio dagli insegnanti di questo centro, La Scatola dell'Arte, che collabora con il festival. Molti di questi laboratori daranno vita a incursioni, diciamo invaderanno il quartiere, il territorio intorno al Teatro di Tor Bella Monaca, e questi laboratori sono gratuiti, questa è la cosa anche importante, aperti a tutti, alla cittadinanza, non solo ai professionisti. Quanti saranno gli spettacoli nel complesso? Allora, nel complesso sono 20 spettacoli, o meglio 20 recite, diciamo, di vari spettacoli. Sì, perché praticamente a parte qualche spettacolo che, insomma, che viene replicato in questo senso, però sì, il numero totale sono 20. Qualcuno verrà replicato, quindi il resto sono eventi unici. Esatto, esatto. Okay. E l'altra cosa interessante è che il Teatro di Tor Bella Monaca ha già due sale, una sala piccola e una sala grande, e poi gli spettacoli, oltre a occupare le due sale teatrali, dedicate a questo, occuperanno anche gli spazi esterni del teatro, perché ci saranno delle performance assai specifiche, per esempio fatta da questa compagnia francese, Le Grand Chété, che porta Coupe de Foudre a Turbella Monaca, cioè proprio un pezzo fatto apposta che verrà fatto fuori dal teatro, così come la compagnia brasiliana Artefato do Corpo, e poi ci saranno anche performance nel foyer del teatro. Insomma, in qualche modo verranno abitati tutti gli spazi, dentro e fuori. Ok. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Certo, allora abbiamo chiaramente il sito dove c'è tutto, www.teatrodobellamonaca.it. Abbiamo il telefono, insomma, in teatro rispondiamo sempre, è 06 20 10 579. E dopodiché c'è Facebook, dove appunto c'è la pagina del Teatro Torbella Monaca, dove ci sono tutti gli eventi, tutti i laboratori, insomma, tutte le informazioni, anche su tutto, anche su Facebook e sui social, chiaramente. Allora, ricordiamo TBM Danza, Festival Internazionale di Danza Contemporanea, a Roma, al Teatro Torbella Monaca, dal 17 settembre al 16 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Patrizia Cavola. Patrizia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tante a voi e spero di vedervi al festival. A presto. Con Gianmaria Cervo, direttore della 22esima edizione di Quartieri dell'Arte, il festival che si svolge nella Tuscia dal 26 agosto al 24 ottobre. Gianmaria, ben trovato. Grazie, buonasera. Allora, intanto in vari luoghi della Tuscia. Sì, in vari luoghi della Tuscia, è un festival che ha questa vocazione multipolare, quindi Bagnoregio, Viterbo, Acquapendente, Ronciglione, Vitorchiano, e questo ci permette anche di fare dei lavori site specific sui territori in cui operiamo. Insomma, è secondo un criterio anche di clash di prospettive, perché poi molte delle compagnie ospitali sono delle compagnie straniere, quindi sono prospettive sociali, culturali, nazionali molto diverse che si incontrano, a volte anche, perché no, collidono piacevolmente, insomma, nella preparazione degli eventi, nello sviluppo delle produzioni. Siamo alla 22esima edizione, già una lunga storia. E come lo descriveresti il festival? Lo descriverei, se devo trovare un aggettivo univocale, direi, polifonico, ecco, tante voci, l'associazione di elementi della storia e della tradizione del territorio con elementi invece che sono estremamente innovativi. Quindi in questo senso il festival è politico, perché ci piace l'idea di creare più discorso attorno a dei temi, ancor più se poi questi temi sono stati colpiti per le ragioni più disparate da damnatio memoria, no? E sono stati un po' rimossi dalla memoria collettiva. Sì. Però la nostra idea non è quella di fare lo statement, quella di fare la predica, per così dire, sul tema, è più un'idea di creare più dibattito, più discorso, di far vedere venti emotivi, correnti culturali diverse che hanno attraversato o possono attraversare un fenomeno, un oggetto, e attraverso questi portare lo spettatore a chiedersi cosa sia quell'oggetto. Quindi è più un dialogo con gli spettatori che non uno statement da arte delle buone intenzioni, per così dire. Ecco. Sì. In questi due mesi quanti saranno gli eventi? Tantissimi, sono 22 produzioni e se non sbaglio 73 spettacoli, quindi è una cosa immensa, è un tour de force per noi, per le compagnie, per gli artisti, per tutti, anche un po' per gli spettatori, che però insomma lo fanno piacevolmente, questo tour de force. Ci fa piacere accompagnarli, insomma, in questi itinerari. C'è un calendario fisso di giorni e di luoghi, oppure tutto è a incastro e bisogna consultare il programma? è bene sempre consultare il programma, ci sono delle sovrapposizioni, anche se ovviamente cerchiamo di crearne il meno possibile, quindi diciamo che tendenzialmente quando ci sono più eventi nello stesso giorno, cerchiamo di fare in modo che lo spettatore li possa vedere tutti. Ovviamente il programma si può vedere sul sito del festival, che è www.quartieridellarte.it. Benissimo, allora ricordiamo la 22esima edizione del Festival Quartieri dell'Arte in varie località della Tuscia. Un ringraziamento e un saluto al direttore Gianmaria Cervo. E Gianmaria, un abbraccio e un bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio, a prestissimo, grazie. Simone Nebbia, teatro e critica per la settimana teatrale romana, e ben trovato. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Che dici, Simone? Dico, insomma, una settimana che ci ha consegnato intanto i debutti di due spettacoli notevoli che faranno molto parlare. Il primo è concluso e si tratta del Quasi Niente che Florian Tagliarini hanno portato al Teatro India, dedicato a Michelangelo Antonioni, e a una ricerca, insomma, non solo sulle immagini del film, ma proprio una ricerca del concetto che Antonioni porta nella sua indagine cinematografica. Per ciò che riguarda invece l'altro progetto che ha debuttato al Teatro India, si tratta di L'Abisso di Davide Enia, che sta in scena fino al 28 e che abbiamo visto nei giorni scorsi, un lavoro necessario e importante che nei nostri microfoni, insomma, deve risuonare alto, perché davvero il lavoro che ha fatto su Lampedusa è di grandissimo, grandissimo rilievo. Bello ed emozionante. Assolutamente, necessario e urgente, molto, molto appassionato il racconto di Davide Enia, che era da 11 anni lontano dalle scene, quindi evidentemente ha sentito una forte, forte carica per tornare con questo progetto. Ma ci sono anche altre cose in questa settimana, sicuramente resta un Europa Festival, insomma ci sono un po' di cose in giro. Ti parto dall'ex lavanderia, che resta comunque bene in piedi, per fortuna. Questa settimana è l'occasione per continuare la rassegna autunnale Umane Scintille il venerdì e il sabato. Si tratta per questa settimana di due lavori, uno tratto da un testo di David Harrower, autore di Blackbird, che ricordo, insomma, visto qualche anno fa al Teatro India con Massimo Popolizio. Lo spettacolo si chiama invece Lei, la regia è di Sofia Namiar ed è tratto dal testo di Harrower I coltelli nelle galline. Mentre per ciò che riguarda l'altro lavoro, si tratta di uno spettacolo per bambini di burattini animati molto particolari, animati con i piedi, che si chiama A piede libero, e sarà lo spettacolo di Laura Kibel, all'ex lavanderia, alla Santa Maria della Pietà, cioè un luogo che è a contatto con la nostra storia, non smette di risuonare, fortunatamente anche teatro. Per ciò che riguarda invece la Sala Umberto, abbiamo il debutto del nostro amato Paolo Rossi con Il Re Anarchico e i Fuorilegge di Versailles, scritto da Emilio Russo e Giorgia Rossi. Sarà apparente, che dici? Dal 16 al 28 ottobre abbiamo questo lavoro attorno al pianeta Molière. Paolo Rossi non è la prima volta che dedica a Molière, insomma, buona parte della propria indagine teatrale. In questo caso lo sfondo è ancora Versailles, le parole di intrecci molieriani si incrociano con questa visione del tempo presente, insomma, attraverso un tipo di indagine teatrale che Paolo Rossi, a cui Paolo Rossi ci ha abituato, insomma, andare nella storia del teatro a rintracciare il presente con la propria ironia e il proprio sarcasmo. Quindi 16-28 ottobre alla Sala Umberto, Paolo Rossi con Il Re Anarchico e i Fuorilegge di Versailles. Poi Gantan, l'epopea teatrale che Bruno De Capitani porteranno in scena dal 17 al 21 ottobre, che è un po' lo spettacolo della settimana, epopea sul rapporto tra Occidente e Afghanistan, e si tratta di un lavoro che tiene insieme testi di grandi autori. Sarà al Teatro Argentina in questi giorni, è assolutamente da non perdere per parlare appunto della nostra contemporaneità. a terzo sguardo, insomma, di autori teatrali di questo grande rilievo. Poi ti porto anche al Teatro Vascello, c'è il Festival Francese che ci porta questo spettacolo di Christian Poissonneux il 18 di ottobre. Sì, Teatro Vascello, mi stavo un po' perdendo, si tratta di uno spettacolo contro la disoccupazione, in realtà affrontata da persone in cerca di lavoro, questa sorta di odissea tragicomica. E poi sarà la volta appunto ancora di Molière con Les Fourberies di Scapin, 19 e 20 novembre, ah no, perdonami, ottobre, qui è segnato novembre ma credo sia ottobre effettivamente, altrimenti non avrebbe molto senso, c'è forse un errore di battitura. E si tratta di un testo di Molière che rivive in tutta questa frizzante energia sul palco del Teatro Vascello. Ho delle immagini di questo spettacolo, ci sono dei costumi straordinari, invito ad andarlo a vedere proprio per questo. Quindi al Teatro Vascello, appunto, il Festival Francese sarà l'occasione per vedere un po' di teatro francese. Per ciò che riguarda invece Roma Europa Festival, ti porto, Federico, Roma Europa Festival presenta questa settimana il debutto già avvenuto, ma insomma è un debutto che sarà in scena fino al 20 ottobre di Peter Brook, Maria Elena Estienne con The Prisoner. Poi è l'occasione anche per vedere fino al 21, questo al Teatro Vittoria, perdonami, per vedere l'installazione di Robert Henke, Linee e punti numero 1 alla Sala Santa Rita fino al 21 di ottobre. Mentre invece questa è la settimana per Ofesh Schechter, il gran finale, gran finale in realtà, pronuncia, 17-19 ottobre al Teatro Olimpico, e al Mattatoio arriva la nuova danza europea con Dancing Days, che Teatro Critica seguirà da vicino con un focus dedicato di approfondimento. Si tratta di opere di grandi coreografi italiani o internazionali, Karen Levy, Sara Svuotti, Christos Papadopoulos, Ingrid Berger-Mühre, Luna Cenere, Salvo Lombardo, Dominic Grünbüchel e Luc Baio. Queste le pronunce che invito, diciamo, ai nostri ascoltatori a contestarmi continuamente, perché è giusto così, insomma. Certo, certo. Sì, è opportuno, insomma, io farei a me stesso. Quindi ecco, questo per quanto riguarda la settimana di Roma Europa, ma grandi cose effettivamente e molto vocata verso la danza. Settimana prossima sarà l'occasione invece per aprire sul teatro degli anni luce, il teatro di questi anni delle compagnie, delle nuove compagnie italiane. Insomma, ovviamente The Prisoner è un po' lo spettacolo della settimana, ci ha debuttato l'11 e si interroga su qual è il significato del termine giustizia in un mondo dove carcerati e guardiani si scrutano e si pongono le stesse domande. Questo per ciò che riguarda Roma Europa Festival. Ti dico anche, Federico, che c'è uno spettacolo a cui tengo, che ho visto qualche tempo fa, che debutta alle Carrozzerie Nord, 18-20 ottobre, è l'occasione per vedere Intimità, uno spettacolo della compagnia Amor Vacui, 18-20 ottobre, dedicato appunto al tema del lavoro, uno spettacolo scritto e diretto dagli stessi attori, insomma, quindi firmato proprio Amor Vacui, e è un lavoro abbastanza delicato, molto intrigante, simpatico, con cui passare un ottimo fine settimana. Quindi alle Carrozzerie Not, 18-20 ottobre, Amor Vacui con Intimità. Poi, ancora, che altro c'è da dire? Ce ne andiamo belli belli al Teatro Quarticciolo per concludere la nostra settimana. 19 di ottobre alle ore 21, Centocelle Stories, il lavoro di Simone Amendola e Floriana Pinto, produzione Blue Desk, che andranno a raccontare la trasformazione di un quartiere attraverso un documentario molto molto interessante, che però appunto viene presentato al Teatro Quarticciolo, ed è un mediometraggio che sarà alle 21, e seguirà invece un documentario breve di 15 minuti che si chiama Zazà Kurd, su Hamza, che vive in Italia come rifugiato dal 1999, da quando è dovuto scappare dalla Turchia per salvarsi da un processo, insomma, di giustizia sommaria che l'avrebbe condannato al carcere. È però stato poi rimpatriato nel 2015, dopo 16 anni di resistenza, fisica ed emotiva, ha potuto rimettere piede nel suo paese, insomma riabbracciando i propri familiari. Quindi questo sarà al Teatro Quarticciolo il 19 di ottobre, mentre chiudo proprio al Teatro Quarticciolo, perché il weekend porterà Psicopompo Teatro con il 20-21 ottobre il lavoro Farsi Cuori con Luisa Merloni e Marco Quaglia. E Luisa Merloni che cura anche la regia di questo lavoro, dopo averne scritto anche il testo, quindi effettivamente un lavoro interamente condotto dall'attrice di storica di Psicopompo Teatro, che nasce da una semplice domanda: siamo la prima generazione che sceglie davvero se essere madre o no? Come si arriva a questa scelta? Come viene posta la domanda? Parte da, appunto, da una situazione: cosa accadrebbe se una donna di oggi, moderna ed emancipata, si trovasse di fronte all'Arcangelo Gabriele che viene per fare l'Annunciazione? Ecco, questo Farsi Fuori è effettivamente il punto di partenza del lavoro di Luisa Merloni per Psicopompo Teatro, 20-21 ottobre, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Simone, un abbraccio, ci si vede a teatro. Ciao a tutti! Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.